Sono stato convocato. Sono stato convocato. Che vuol dire che sei stato convocato? Come cosa vuol dire? Non ci vuoi andare? Dimmi che devo girare, io giro. No, devo andare. Se ti convocano, tu vai. Possiamo cominciare! Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Modric nel mucchio. Colpo di testa e Sergio Ramos trova il pareggio. Incredibile il Real Madrid. Il miracolo della notte di Champions. Al 93esimo il Real trova il gol del pareggio. E adesso ci sta Ronaldo. Se fa gol lui è finita. Rincorsa da pistolero. Fa lui col destro. Rete! Rete! Non può sbagliare Ronaldo! Non può sbagliare il migliore di tutti! Il Real Madrid è campione d'Europa per l'undicesima volta! Per noi vamos a tener, io credo che una motivazione uguale, extra, perché è una semifinale, pasó lo che pasó e no vas. Tú no puedes, ¿cómo se dice?, servirte de lo que ha pasado, porque lo que pasó, pasó. Ha sido positivo para nosotros, pero ahora es completamente diferente. Es una otra semifinal y ellos van a hacer todo para también pasar. No creo, no sé, la verdad que no me imagino el resultado del partido, sinceramente. Espero que sea un partido apretado, espero que sea un partido donde nosotros sepamos aprovechar los espacios que seguramente nos podrán permitir, si es que nos los permiten, porque posiblemente también, sabiendo que el segundo partido es en nuestra casa y el gol posiblemente siempre más importante y el rival está habituado a hacer goles, tiene la posibilidad de ese segundo partido serle útil, porque juegan siempre de la misma manera en todos lados. Y me imagino un partido complejo sobre todo, y desde lo táctico, el que mejor logre colocar las piezas, posiblemente su equipo jugará mejor. Come sapete, la strada che porta in Galles, a Cardiff, ai confini dell'impero, solo calcistico, perché era arrivare lassù, sarà un viaggio abbastanza infernale per le squadre e soprattutto i tifosi. Ma quali tifosi che seguiranno le loro squadre nell'ultimo atto della Champions League? Beh, la strada, ma questa non è una novità, passa da Madrid. Allora, da oggi, mentre saluto Giorgio De Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia, Edoardo Lavezzara in redazione, voi non li potete vedere, io sì. Ma da oggi possiamo vederci, o meglio, in questo giochino per voyeur, voi potete vedere me collegandovi con il sito di Radio 24 o con la pagina Facebook di Radio 24. Questa multimedialità è ormai condizione preponderante e io di solito tengo le luci un po' più basse, mi tocca tenerle alte, ma lo faccio con piacere per voi e per Filippo Maria Ricci, il cui volto conoscete benissimo perché lo vedete ovunque. È quasi inflazionato lo storico corrispondente della Gazzetta dello Sport di Radio 24. Ciao Filippo. Non mi sente Filippo Maria Ricci da Madrid. Adesso ci colleghiamo, cominciamo bene con le dirette radiotelevisive di tutti i convocati. Comunque, vi segnalo una pagina molto dolce, molto bella, molto delicata, molto politicamente corretta, comparsa oggi in Spagna, su Marca, uno dei quotidiani più popolari, come ben sapete, che ritrae due bimbi con le maglie numero 7, una bianca di Cristiano Ronaldo, l'altra biancorossa di Griezmann, i due grandi protagonisti, le due grandi stelle. Questi due bimbi che Filippo Maria Ricci, sto raccontando la pagina di Marca perché mentre è ricaduto. Pronto, eccoci. Eccolo là. Stavo raccontando con toni enfatici questa prima pagina di Marca, molto dolce, molto politicamente corretta, con i due bimbi con le maglie di Griezmann e Cristiano Ronaldo, che prendono la metropolitana insieme, sopra c'è scritto Cardiff. Per andare a Cardiff bisognerà arrivarci a dorso di mulo, ma questa è un'altra storia. Senti, parto da... Dimmi. No, no, in realtà poi di quei bambini ce n'andrà uno a Cardiff, sono mano sì, nella mano. Però l'altro va a casa a piangere, piangere. Comunque, la metro non la prende, però vabbè. La prende per andare a Santiago Bernabéu questa sera. Dove? E comincio da qui. Negli ultimi 4 anni il Ciolo ha sempre vinto almeno una volta, tranne quest'anno. Sì, in Liga. Cioè qua ci sono due, cioè, guardiamo i numeri, ci sono due tendenze molto contrastanti. In Liga no, il Ciolo se la cava bene con nel derby col Madrid. Ricordiamo che quando è arrivato non vincevano il colchonero su un derby da 14 anni, dal 99 con Claudio Ranieri, e 26 partite senza vincere. Alla fine lui comincia a vincere benissimo in Liga, è tutto a posto, vince anche la finale, la prima storica finale di Coppa del Re contro Mourinho, l'ultima partita di Mourinho. Però in Champions si è schiantato 3 volte negli ultimi 3 anni contro il Muro Bianco, una volta ai quarti di finale e 2 in finale. Saluto anche Pierluigi Pardo, che invece per vedere non ci vuole la webcam, ma basta accendere la TV su Italia 1 anche da stasera. Ciao Pier. Sì, alle 19, ciao a tutti. Ciao Phil, come va? Ciao caro, bene. Vuoi che vada, ogni anno si vede almeno una semifinale di Champions League. No, ma è lui, da quando è andato lui il calcio spagnolo ha cominciato a vincere, infatti adesso lo invitano tutti, è diventato una specie di amuleto, quindi lo invitano nei centri, nei villaggi vacanze. Sì, eh? Sì. Paga il ristorante, non paga il bar. Perché averlo comunque sia non solo a Madrid dove risiede, ma anche a Barcellona e in ogni angolo della Spagna. Certo, il mondo globale, quindi si è sparsa la luce. A Barcellona, tutta l'Europa, abbiamo dominato l'Europa, no? Dal 2006, io sono sbarcato qui appunto 11 anni fa, forse dal 2 o 3 di maggio, quindi siamo in anniversario. Non cresceva più una coppa neanche ad innaffiarla, no, con loro. Esatto, tutto. Anche decima, undecima, sì, Barcellona c'era una Coppa di Campioni quando sono arrivati in Spagna, ragazzi, una. Sì, adesso è l'albero delle Champions League, ma non solo Madrid, anche Barcellona, quindi... Appunto dico, Barcellona da 1 a 5 è passato. Senti, mi piacerebbe fare un giro a Ibiza e Formentera dove non sono mai stato, mi mandi tu? Certo, va bene, anche lì è poi più difficile vincere qualcosa in Europa, anche a livello nazionale, questo conta relativamente. Era l'anno scorso è arrivato ai 16esimi di Coppa, no, col Siviglia. Ecco, poi, esatto, bravo, vedi. Senti, arriviamo all'allenatore che tutti vorrebbero, cioè il Ciolo Simeone, in particolare c'è qui dalle mie parti depresse, perché sono pronti a fare un contratto a Filippo Maria Ricci a vita per risiedere a Milano. Forse potremmo riportare in alto anche esatto, forse ce la possiamo fare la Lombardia, sì. Bravo, il Ciolo. Un allenatore che tutti vorrebbero contro uno che forse lo vogliamo, forse non lo vogliamo più. Intanto lui vince, Zizou Zidane. In campo non c'era paragone, esatto. In panchina è un'altra storia. Sì, allora Zidane per me il merito più grande è questo di saper gestire una rosa eccezionale. Bisogna anche dare qualche merito comunque a chi ha costruito questo Real Madrid, perché una panchina così non ce l'ha nessuno, per esempio non ce l'ha il Barcellona, non ce l'ha l'Atletico Madrid. Cioè se tu sei in difficoltà al minuto 60 al Madrid puoi far entrare Isco, James, Lucas Vázquez, Asensio, Morata. Il Barcellona fa entrare Denis Suarez, Paco Alcácer, il Ciolo può far entrare il Lino Torres, Partey. O Gaetan, capito? Cioè, questa è la grande differenza. Attenzione però, c'è un po' di sarrismo lo chiedo a Pardo, c'è un po' di sarrismo in Zidane, perché molti di quelli che sono in panchina a cominciare da James hanno una piva così, Morata non si vede mai, Kovacic non so neanche da che parte stia. No, hanno giocato tanto, Garbage time. Zidane è un grande giocatore, ha un grande allure, ha un grande fascino, un grande carisma e l'ha portato nella squadra. Insomma, i risultati saranno stati anche ottenuti con un po' di fattore C, perché poi insomma è chiaro che quando vinci una coppa ai calci di rigore, insomma non è che il Real sia stato sempre straordinario, però la continuità dei risultati c'è ad oggi, e vincere non è mai banale, non è mai scontato, perché poi alla fine vince uno solo. Quindi io grandissimo rispetto per Zidane, e credo che ci sia un po' di sottovalutazione nel suo lavoro. È chiaro, non è un lavoro particolarmente appariscente, non è dal punto di vista didattico, non è un allenatore di quelli che cambiano la storia del calcio o che portano chissà quali idee innovative, però vince. Beh, Del Bosque insegna su quella panchina, oltre che sì, su quella della Spagna. Voglio dire, ma guarda, questo Madrid conta quello, Pier. Al Madrid non ha mai fatto, non si ricorda un Madrid, diciamo, per il suo gioco. Si ricorda Madrid per la potenza, per le grandi stelle, perché vince. Questo è il Madrid, esatto. No? No, è vero, è vero. Cioè, non è che dici, mi ricordo il Madrid di, non so, di Henkes o di Del Bosque o di Capello per il gioco, no, te lo ricordo, devi stare calmo prima di pronunciare la parola Capello, però. Attenzione, No, ma a parte tutto, è vero questo, ed è vero anche che poi per i grandi allenatori il mix, diciamo, il kit di qualità non è solo tecnico. A Roma si parla tanto di Spalletti e delle difficoltà che ha avuto ultimamente, a Napoli si parla del salto di qualità che potrebbe fare anche dal punto di vista della comunicazione Sarri, questo discorso vale, l'allenatore è 50% campo, forse addirittura qualcosa meno, sì. Direi che è 40% campo, 40% gestione psicologica del gruppo e 20% comunicazione. Poi dipende dalle squadre, poi le percentuali secondo me ha ragione Filippo, nel senso che variano. Se alleni l'Empoli, con tutto l'affetto e tutto il rispetto per l'Empoli, fai un lavoro essenzialmente di campo. Questo è chiaro. Se alleni un grandissimo club... Però vedi, a Napoli giocano un calcio meraviglioso, no? Mentre a Madrid, per paradosso, Filippo, un calcio meraviglioso lo continuano a chiedere, perché dicono: vabbè, noi compriamo tutte le superstar possibili, vogliamo anche il bel gioco, vogliamo anche vedere giocare bene. Ma raramente si è visto il Real Madrid giocare bene. No, questo è quello che ti dicevo prima. No, in realtà, certo. Madrid gioca, il Madrid segna, intanto segna, intanto cominciamo a dire che sono 58 partite di fila che segna, no? Questo mi sembra già un bel dato. Se tu vai a vedere la tua squadra, sai che un golletto te lo fa. No, hanno festeggiato un anno, no? Un anno solare in rete, e questo già mi sembra interessante. È chiaro che il gioco si può migliorare, però qua, insomma, stasera, quando si arriva a questi livelli qua, non è come il Barça. Il Barça sì, che c'è questa essenza del gioco, che, diciamo, il purista è più diffuso, diciamo, sulle tribune del Camp Nou. Qua al Bernabeu comunque alla fine poi gli piace più l'epica, cioè al madridista quello che gli piace è la rimonta. Questa conquista finale, non mollare mai, loro viaggiano su altre dimensioni, e per me fanno anche bene, per cui Zidane per me è l'allenatore perfetto. Poi è bellissimo, la cosa ieri è stata una conferenza stampa per un pochino squalli, poco senza guizzi, però la cosa più interessante è che lui sa benissimo che la sua continuità non è assicurata, lui non lo sa se l'anno prossimo paradossale, la Liga praticamente ha le mani sopra sulla Liga, sì, e la Champions League. E la finale di Champions è lì. Senti, lo chiedo a te subito, poi ti saluto. Ma non c'è il traffico? Sì, c'è il traffico. No, perché io volevo dire una cosa che mi è venuta in mente sentendo Ricci. No, tu aspetti, prima facciamo il traffico. Salutiamo, saluto Filippo Maria Ricci, perché tanto lo risentiamo domani, ormai lo sentiamo tutti i giorni, il nostro co-conduttore. Rimane in vita questa sfida dopo stasera? Sì, rimane sicuramente in vita. Io sono sicuramente rimane in vita. Non, in realtà non ho un pronostico preciso, è complicato. Vedo sì Madrid in gol, però anche il Madrid che lo Navas ha preso gol nelle ultime 17 partite, quindi se segna l'Atletico cambia molto. Mi è piaciuta la frase che diceva prima Simeone, che ha fatto sentire tu, dice: il Madrid sa che segna sempre e quindi può puntare su questo per il ritorno al Calderon. Uh-huh. E per me no, stasera resta aperta, però il risultato siamo lì, un 2-1, 1-1, una cosa del genere. Ci sentiamo a domani, Filippo, sì. Grazie. A domani, dai, domani lo sapremo meglio com'è andata oggi. Sì, domani lo sapremo. Traffico. Tutti convocati. Convocati. Allora, Pierluigi Pardo, rimane in vita la partita questa sera, la sfida questa sera. Ti ricordo lo squallido 4-2 con cui hai perso nella schedina con Capuano. No, che è 4-2. 4-2. No, 3-2 o 4-3. Ho perso di una e vabbè, lasciamo perdere perché no, Capuano ultimamente... Stai facendo delle polemiche inutili. No, avevamo 5 partite diverse. Genoa-Chievo, ha vinto il Chievo, lui aveva detto che vinceva il Genoa, pareggiato e vabbè, 0-0. Roma-Lazio, lui ha detto che vinceva la Roma, io ho detto pareggiato e quindi nulla di fatto. Sì, essenzialmente ha vinto per Atalanta-Juve, per il retromassaggio di Pjanic che ha cambiato tutto. Poi io ho beccato Inter-Napoli, vuoi che fare... era un po' la partita della settimana, del weekend. E quindi... Sì, intanto è a meno uno in classifica e mi sembri un po' il meno uno, mi sembri un po' la Roma, mi sembri un po' la Roma. Braccino, c'è un po' di braccino. Hai un po' di braccino, un po' di braccino. Sì, sei un po' troppo superiore. Senti, abbiamo due grandi ospiti, due grandi portieri. Sì. Che hanno vissuto due epoche, perché di questo si può parlare, uno alla Juventus e l'altro al Monaco. Indovinello, Michelangelo Rampulla e Flavio Roma. Buongiorno. Buongiorno. Lascio cominciare a Pierluigi Pardo. Che partita vi aspettate? Da chi lo vuoi sapere? A tutti e due. Beh, Flavio conosce molto bene ovviamente il Monaco, lo conosce anche Michelangelo, tutti, ma in qualsiasi posto dice, ma questi corrono, è un po' il luogo comune sul Monaco, ma questi corrono, e non è che gli altri non corrono, ma è realmente questo il pericolo, l'energia di questa squadra, la sfrontatezza di questa squadra? Ma comincio io? Sì, Flavio. Comincio io da Monaco, no, scherzo. Sì, diciamo che in questo momento vanno veramente forte, come dici tu, logicamente anche gli altri corrono, la Juve corre anche tanto, loro hanno questo modo di giocare, cioè, si inizia dal fischio d'inizio fino alla fine, hanno lo stesso ritmo praticamente, mentre la Juve magari ha un ritmo più gestito, sanno abbassarlo, sanno alzarlo, insomma sanno variarlo. Loro credo che forse magari potrebbe essere l'unico difetto è quello di avere solo quel ritmo e ci sono dei momenti, soprattutto durante il secondo tempo, che lo hanno sofferto, insomma, questo modo di giocare. Michelangelo Rampulla, la solidità e l'esperienza contro la freschezza, la leggerezza, l'atletismo del Monaco, sono quasi due squadre opposte, mi viene voglia di dire, Juventus e Monaco. Monaco che ha segnato una quantità di gol pazzesca, 95 gol in 34 partite di campionato, 19 gol in 8 partite di Champions League, la Juventus ne ha beccati due. Sono quasi due squadre opposte, sei d'accordo? Sì, sono due squadre. Il Monaco è una squadra molto giovane, frizzante, con tanta voglia di fare, così come la Juve, che ha voglia di fare, non è seconda a nessuno, ma secondo me ha qualcosina in più a livello tecnico. Bisogna sempre stare attenti alla velocità degli attaccanti del Monaco e i numeri parlano chiaro. Però parlano chiaro anche in favore della Juve per quanto riguarda la difesa. Due gol subiti da settembre a qui in Champions League, ti stai riferendo a quello? Certo, sicuramente, però sai, diceva Flavio, sono molto frizzanti, hanno voglia di farsi vedere, di caduta la linea con Michelangelo Rampulla, la recuperiamo subito. Qual è l'antidoto alla freschezza del Monaco? Come deve giocare la Juventus? Pardo e Flavio. Ma soprattutto io, deve giocare secondo me con intelligenza, perché accettare la sfida sul ritmo, sui 90 minuti del Monaco sarebbe veramente pericoloso ed è veramente l'unica vera incognita. Quindi ci vorrà la capacità abbassare il ritmo, di alzarlo e abbassarlo a seconda dei momenti. Di riuscire a tenere ovviamente nei momenti che immagino ci saranno di pressione del Monaco e poi avere ovviamente anche la lucidità di colpire. Mi aspetto una partita così, è importantissimo ovviamente fare gol fuori casa. Io penso non sia facile, poi penso che la Juve delle due partite sia superiore, ma del resto la semifinale di Champions League non può mai essere facile, quindi ci sta questo tipo di cosa. E poi la Juve è squadra di... secondo me è cresciuta rispetto a due anni fa, ecco, io veramente... È un'altra cosa, anche un'altra consapevolezza. Ma soprattutto quello, guarda, perché forza. Poi alla fine se tu guardi i giocatori sicuramente davanti hai qualcosa in più, perché l'arrivo di Higuaín e l'esplosione di Dybala ti danno tanto in più, però centrocampo è sicuramente qualcosa in meno rispetto al centrocampo strepitoso di 2 anni fa. Però 2 anni fa quella partita col Barcellona te la sei giocata con forse con un pizzico di timore reverenziale, era anche un altro Barcellona, e quest'anno li hai schiantati. Mi sembra che la consapevolezza sia veramente cambiata e quindi insomma, i segnali sono positivi. Poi è ovvio che la Juve lo sa, perché la Juve è una squadra che mentre in campionato ha avuto tante volte anche delle situazioni diciamo positive, no, nella gestione dei finali punto a punto, in Champions invece no, Champions spesso si è fermata sull'ultimo metro, quindi lo sa meglio di chiunque altro che il pericolo è sempre in agguato. Però, sì. Ti ripeto, ho dei segnali incoraggianti. Flavio, tu vivi ancora lì, no? Vivi ancora... Sì, io vivo qui, sono tornato qui dopo l'esperienza al Milan, sono tornato 2 anni al Monaco, Ranieri. Sì, con Ranieri, sì. Certo. Come darti sono ancora qui. L'hai sentito di recente, Ranieri? No, l'ho visto l'anno scorso, per un'occasione sì, di un evento, era proprio a fine stagione, aveva appena vinto il campionato e poi non ho avuto più occasione. Non hai più avuto occasione. No. Mai come quest'anno i 30 chilometri d'oro del calcio francese, praticamente come abitare in paradiso, tra Monaco e il Nizza, che ha fatto la pelle al Monaco, che ha fatto la pelle al Paris Saint-Germain, complice Balotelli, dando una mano al Monaco, praticamente il paradiso può attendere, perché già lì sono posti meravigliosi, si vive bene, in più se c'è questo calcio o no. Sì, no, detto, cioè, stagioni perfette per Nizza e Monaco, perfette da tutti i punti di vista, come vedi tu. Poi il Nizza in più in questo momento aveva appena finito il nuovo stadio, perciò sì, è pieno, andando così bene, insomma, è anche pieno, è un bel vedere, è un bel ambiente. E Monaco, d'altro canto, è lì, sta per vincere il campionato, è in Champions League, penso meglio di così, dove vai qui a distanza di 2 chilometri vedi belle partite, insomma, perciò si sta bene. Sì, da una parte c'è un Beppe, dall'altra c'è Balotelli, sì, non è esattamente Balotelli. La stessa cosa, però no. due giocatori, mettiamola così, due giocatori di grande talento, eh? Sì, talento ce n'è tanto, penso, no? Anche Mario, insomma, anche qui ha fatto croce e delizia, insomma, è stato anche qui a Nizza. Però dopo la partita di Parigi dell'altro giorno contro Parigi ha rimesso tutto a posto, sono impazziti di nuovo qui per lui, perciò c'ha questa qualità, insomma, problema fa croce del naso, poi rimette tutto a posto quando decide lui. Sì, il problema è che ogni tanto impazzisce lui, allora sono casini. grazie Flavio, ci sentiamo presto. Ciao. Grazie a voi, è stato un piacere. Grazie, io volevo chiedere ancora una cosa a Rampulla a proposito di questo attaccante che adesso tutti vorrebbero, ma in Italia non ce lo possiamo permettere, cioè Mbappé, quello il ragazzino che è esploso ormai nel Monaco. Michelangelo, sai che percentuale ha questo ragazzo nel percentuale realizzativa? 46%, cioè su 100 tiri nello specchio della porta segna 46 volte. Un grande attaccante viaggia su sotto il 30, ecco. Beh, però sai, bisogna vedere i grandi attaccanti in quanto tempo, in quanti anni si fa questa valutazione. Ah, sicuro. Mbappé è appena uscito, è esploso, bisogna vederlo e rivederlo ancora. Sì, speriamo sì. che ci fermi qui, queste sì, due partite. Poi dall'altra parte un conto è trovarsi di fronte il portiere del CAEN, un altro conto è trovarsi davanti Buffon. Io credo che anche in questo, no, Buffon... Insomma, un po' di timore reverenziale te lo incute se sei un attaccante. La storia di un calciatore parla per lui, e in questo caso Gigi non ha bisogno di altre valutazioni, per cui l'attaccante che gioca contro Buffon sta anche per far gol deve fare più che un semplice tiro. Sì. Grazie, buon viaggio, ci sentiamo presto, Michelangelo. Ciao. Un po' come trovarsi davanti a Pardo portiere vestito con la maglietta arancione. Questa è un grande ricordo, uno dei momenti più belli della mia vita, fra l'altro. Sono riuscito a tenere la porta inviolata, miracolosamente. No, ma secondo te domani sera il pericolo vero della Juve da dove arriva? Arriva da questa, unicamente da questo giocatore, o dal fatto che questi giocano veramente leggeri? Non hanno niente. Giocano bene, giocano leggeri, e poi non conosciamo il limite. Cioè, quando il Barcellona quando è nata la generazione del Manchester United di Ferguson, non si conosceva il limite di quella squadra, non si conosceva la portata di quello che avrebbero realizzato. Qui è un po' la stessa storia, poi magari sarà una bolla di sapone, ce l'auguriamo ovviamente per la Juve, cominciare da questa semifinale di Champions, però questa è una squadra che non ha precedenti, ripeto, non è il Porto, non è la squadra media a livello europeo, potrebbe essere una squadra media che ha beccato una serie di circostanze favorevoli, potrebbe essere una squadra, io la vedo un po' tipo Borussia Dortmund del 2013 che arriva in finale col Bayern, cioè quel tipo di... Sì, anche perché poi dipende anche dalla capacità, dalla possibilità di confermare questa squadra. Il rischio è un po' l'ignoto secondo me, ed è sicuramente una qualcosa che si lega al ritmo della partita, su questo non ci sono dubbi, il ritmo della partita che potrebbe essere forsennato. Monaco insomma ha fatto 12 gol fra andata e ritorno, fra ottavi e quarti, ha fatto sempre 3 gol contro il City a Manchester, contro il City in casa, contro il Dortmund in Germania e contro il Dortmund in casa, insomma è una squadra che ha una facilità offensiva che non può essere sottovalutata, quindi bisogna stare attenti, io ti ripeto, bisogna stare attenti, e secondo me non è stato neanche forse il sorteggio più facile di tutti, tolto il Real Madrid, però forse me la sarei giocata più con l'Atletico Madrid, però è la Juve, però è la Juve. Allora, 800 24 00 24, è questo il vostro numero verde, 349 238 6666 per i messaggi di ogni tipo, potete vederci anche in faccia su Facebook, sul sito di Radio 24. Ci fermiamo per la borsa, torniamo subito. Tutti convocati. Ciao, sono Enrico Ruggeri. Tutti i giorni a Il Falco e il Gabbiano vi racconto storie di vite straordinarie che con un colpo d'ala hanno saputo cambiare il loro destino e quello di tante persone. Vi aspetto alle 15.30 tutti i giorni su Radio 24. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta... Convocati. Dobbiamo fare un po' di più per ambire a certi traguardi, ma ci stiamo lavorando e ci siamo ancora dentro, perché siamo poco risolutivi rispetto a quanto creiamo, ma questo ormai è una realtà, facciamo un po' più fatica con le squadre più corte, più compatte, più chiuse nella propria metà campo rispetto ad altre, e anche questo è un dato di fatto, ma sicuramente oggi non ho visto l'approccio sbagliato. Voi siete stati tutti grandi giocatori e sapete benissimo, e anche voi avete passato momenti delicati, difficili, che non è facile affrontare una partita del genere contro un avversario del genere, quando arrivi da un momento dove comunque la vittoria non ci vede da più di un mese e mezzo, quindi anch'io sinceramente sono dispiaciuto e mi dispiace, perché se nelle altre occasioni sicuramente le responsabilità ce le siamo prese e ci sono state nostre, di non mettere delle prestazioni al nostro livello. Io credo che stasera la squadra abbia fatto uno sforzo importante. Brutta Roma, sì, è vero, brutti episodi che hanno determinato poi la brutta Roma, cioè nel senso che cominci bene, fai quello che è la partita che abbiamo pensato di fare, poi alla prima volta che vengo giù tirano un porto e prendi gol. Noi abbiamo perso di lucidità, abbiamo fatto delle scelte sbagliate. Tre allenatori sull'orlo di una crisi di nervi, avete sentito voci ormai di repertorio dello scorso weekend, Montella, Pioli e Spalletti, raro trovare uno che sia stato al posto di quasi tutti questi e di molti altri, che abbia allenato Juventus, Inter, Lazio e Milan. Alberto Zaccheroni, buongiorno. Buongiorno ciao, a tutti. Ciao mister. Pardo, ci sei, vero? Sì, sono sempre qui. Sempre lì in attesa di Tiki Taka News, ore 19. Esatto, ore 19 con De Carlo, con Madrid, con Giletti, con Briatore, con Paolo Rossi, con Baramaglionchi. Con Briatore. Attenzione, attenzione a Briatore, che le spara grosse. E le incursioni degli autogol, un sacco di cose divertenti. Mister, mi inquadri per cominciare le due semifinali di Champions League? Anche perché io dalla Juventus mi immagino una partita sulla falsa riga di quella che abbiamo visto a Barcellona, mi sbaglio? Sì. Sì, perfetto, grazie. Me lo aspetto anch'io, quindi metterà in campo soprattutto la solidità e cercherà di vincere la partita nella... Ovviamente cercherà anche nella gara di andata, sapendo che loro si bilanciano abbastanza facilmente, e poi dopo nella gara di ritorno tenterà il tutto per tutto, però non credo che nella gara di andata si sbilancerà più di tanto, anche perché l'andamento di quest'anno, la disposizione, la lettura delle situazioni in questa stagione di Allegri suggerisce questo atteggiamento, insomma, sì. Anche in questa occasione. Sì, sì, sì. Tu, Pardo? Ma io penso che ci voglia grande attenzione, grande mestiere, grande intelligenza nel saper reggere la partita, un po' quello dicevamo prima. Però l'esperienza ce l'ha questa squadra, l'esperienza, la il carisma, sé, anche carisma, far pesare, anche far pesare queste cose. Sì, perché poi il City ha fatto due imprese, perché eliminare City e Dortmund non è facile, dico il Monaco. Però ha fatto due imprese con due squadre, una secondo me un po' in crisi di identità, che è il City, l'altra è comunque l'altra un outsider a livello europeo, e poi ha avuto, poi c'è stato onestamente, ecco, tutto quello che è successo che intorno che hanno condizionato. Quindi, la Juve credo che non sia né il City né il Dortmund, con tutto il rispetto, credo che sia qualcosa di più. Dimmi mister. No, volevo dire che io sul passaggio di turno del turno ho pochissimi dubbi. La migliore in questo momento delle quattro, la Juventus rappresenta la migliore delle quattro, a mio parere, la più solida delle quattro, la più costante delle quattro, e il Monaco secondo me è imprevedibile, perché sicuramente è una squadra imprevedibile, però ha qualità e ha squilibri, è l'ultima delle quattro. Sì, quindi, sì, sono sembrano due squadre opposte, guarda, lo dicevo esatto. Prima a Rampulla. Esatto, e per quello che dico che la Juventus nella gara di andata, secondo me, considerando anche che il reparto meno dotato è quello difensivo degli avversari, farà una partita attenta cercando di sfruttare le debolezze avversarie, sì, nel momento in cui capita l'occasione. Ma però l'atteggiamento, come ho detto, di Allegri quest'anno nelle squadre contro nelle partite importanti è sempre stato molto controllato. Dove si è incartato Pioli, Alberto? Io lo conosco abbastanza bene a Piazza di Milano. Ci sono stato 4 anni. Sì. Bisogna stare attenti a non commettere gli errori di portare l'attenzione sulla pressione mediatica. Nel momento in cui scrivono di Conte, io non ne avrei proprio parlato. Io sarei rimasto concentrato sulla prestazione. Io terrei l'attenzione della squadra fortemente concentrata sulla prestazione, neanche sul risultato, perché poi il risultato lo stavi ottenendo, vincevi sempre. E quindi l'errore maggiore in una piazza come Milano è quella di non correre dietro le voci, proteggere la squadra e rimanere sulla prestazione, perché l'Inter non è che mi convinceva totalmente, però stava crescendo, sì. Aveva trovato degli equilibri importanti soprattutto dentro lo spogliatoio, sì, perché sì, è una squadra che ha bruciato già 2 allenatori precedentemente. Sì, ne ha bruciati tantissimi negli ultimi anni. Cioè, secondo te l'errore è stato quello da parte di Pioli di seguire queste voci, smentendole? Esatto. Anche perché ho la sensazione dal di fuori che non ci sia uno zoccolo duro forte all'interno dello spogliatoio. Io guarda, penso esattamente le stesse cose, l'ho detto molte volte, ci sono anche prove audio, no Pardo? L'ho detto tante volte. Sì, l'abbiamo detto tante volte, la forza di un ambiente è anche nella capacità di silenziare, bruttissimo silenziare, chiedo scusa a tutti voi, vi offrirò uno spritz, di mettere a tacere le voci che possono disturbare l'ambiente. È chiaro che qui c'è una situazione oggettivamente anomala, che è un po' simile a quella del Chelsea di Ranieri, no? Ti ricordi quando è arrivato Abramovic, Ranieri aveva fatto un buon campionato, conquistò il quarto posto e venne comunque mandato via. Qui c'è questo tipo di situazione, cioè c'è una presidenza che sembra veramente molto ambiziosa dal punto di vista economico, e quindi il problema, tra virgolette, di poter sostituire o no Pioli si sarebbe comunque presentato. Certamente quelle voci lì non hanno aiutato. No, non hanno aiutato, e poi Alberto Zaccheroni ha detto un'altra grande verità, e cioè non si ha l'impressione di uno zoccolo duro dentro lo spogliatoio dell'Inter, e l'atteggiamento nelle ultime partite, lasciando stare quella con il Napoli, in cui l'Inter è stata tritata da una squadra nettamente superiore, è quello, cioè di giocatori che hanno un po' abbandonato la barca. Alberto, ti chiedo invece di un'altra partita, di un altro allenatore. No, scusa, volevo aprire una parentesi. Sì. Io stimo moltissimo Pioli. Secondo me, ma prima che andasse all'Inter e facesse una serie di risultati, sul piano tattico, sul piano della preparazione delle gare, forse, non voglio dire il migliore, ma quasi, in questo momento, tra gli allenatori italiani. Sì, e anche Montella secondo me è molto bravo in questo. Anche Montella, ed è meno criticabile di Pioli, forse. Sul piano tattico, sulla preparazione delle partite, io metto prima Pioli. Montella, secondo te Montella ha fatto un lavoro che merita attenzione con il materiale umano che si trovava a disposizione? Mi riferisco ovviamente al futuro. No, è stato quasi impeccabile, però. A me piace molto Montella, perché si vede che ma già quando ero in Giappone seguivo e ascoltavo le sue conferenze stampa, si vede che ha grande passione, grande determinazione, e ha mostrato anche idee. Però quest'anno lui ha avuto un grande vantaggio, un vantaggio che ho avuto anch'io l'anno dello scudetto. Non c'è grande pressione. Sull'altra sponda c'è sempre stata una grande pressione. Sì, è vero. Sponda Milan con Berlusconi in uscita, con questi nuovi entranti che non si capiva bene. E non si capisce ancora bene. E non si capisce bene ancora. Credo che nessun milanista abbia messo pressione sulla squadra. Non c'erano grandi pretese. Vero. E questo vero, è un grande vantaggio per un allenatore. Vero. Ci vediamo un attimo per il traffico. Alberto, stai con altri 2 minuti e poi ti salutiamo. Siete tutti convocati. Arrivo, un attimo. Tutti convocati. Faircam & Ocean. Spedizioni mare aereo in mani sicure e pratiche doganali risolte. Faircam.com vi presenta... Tutti convocati. Dunque, io per Alberto Zaccheroni, che di nuovo ringrazio, ho ancora una domanda divisa in due, poi non so Pardo. Allora, la Lazio, altro allenatore emergente, un altro allenatore secondo me bravissimo, che ha fatto un miracolo, il migliore dell'anno insieme a Gasperini, e cioè il giovine Inzaghi. Anche Pippo è andato bene, ma questa è un'altra storia e soprattutto un'altra realtà. Ha sciolto la Roma, che non ha più la faccia tranquilla, tanto che il Napoli è arrivata lì a toccare le spalle della Roma, e io dovessi puntare un euro mi giocherei il secondo posto del Napoli. Anche questa è un'altra storia. Volevo una valutazione su questi due allenatori, Inzaghi e Spalletti, e ci aggiungerei: continuano a chiedere a Sarri di vincere, ma è possibile vincere il campionato così come stanno le cose, anche dal punto di vista economico? Dunque, la prima, quella di Simone, io l'ho avuto come giocatore, sì. E sono onesto, non avrei mai pensato che avesse fatto l'allenatore. Davvero? Sì. Invece mi devo, vedendolo all'opera, mi devo ricredere, perché ovviamente ho visto diverse partite loro, commenterò probabilmente anche la finale di Coppa Italia, sì. E ho visto anche dal vivo a Milano con l'Inter in Coppa Italia, e devo dire che propone tantissime soluzioni molto, molto inerenti al tipo di partita che deve affrontare. E poi è riuscito, grandissimo merito, a mantenere sempre la squadra sulla continuità, quindi il lavoro quotidiano non solamente sul campo, certo, ma anche a livello gestionale, molto molto molto che bene. È molto importante. Ha la squadra in mano, perché poi cambia anche gli elementi, cambia la disposizione in campo e riesce sempre a ottenere il miglior risultato possibile. Quindi grande, veramente tanti complimenti, perché ha fatto e sta facendo molto bene. Ti posso chiedere invece che pensi di Spalletti, nel senso che io credo che le qualità non si discutano, però c'è stata proprio la sensazione di uno scollamento abbastanza improvviso fra lui e l'ambiente, e insomma, indubbiamente quello che è successo fuori dal campo non sembra aver facilitato poi il percorso in campo, o no? Beh, adesso a questo punto, dopo questa partita, lo scollamento è più che evidente. Ma prima mi sembrava in sella, e lui è un allenatore che è molto, molto attento ai dettagli, alla comunicazione, ci gioca molto. Mi sorprende che abbia perso gli appuntamenti più importanti, perché la squadra non ha fatto male, la squadra ha fatto bene, perché è seconda dietro una Juve stratosferica. Quindi adesso è chiaro che rischia il secondo posto, e questa sconfitta con la Lazio un pochino mi sorprende, perché è vero che coincide con Lima, con quanto ho detto prima, che gli appuntamenti importanti fin dall'eliminazione dal preliminare li hai falliti quasi tutti, sì. Però sì, lui è un allenatore che è molto presente sulla squadra, e poi ha una squadra che secondo me era più cattiva, guardando l'andamento in generale, era più cattiva delle altre, no? Sul piano del temperamento, sulla determinazione a fare il risultato. Mi sorprende che abbia mancato questi appuntamenti importanti, perché Luciano è un altro allenatore di, secondo me, di grande spessore. Sì, un martello poi. Un'ultima cosa, mister, ha ragione De Laurentiis? Non so se avrei fatto quelle dichiarazioni che ha fatto. No, quali tra le tante? Se non vinco vado via. Insomma. Ah, quella, è quella è la madre, secondo me, perché tutto il resto può essere più o meno gradevole, può essere più o meno in qualche modo termometro di qualche problema, no? Penso alla polemica con i giornalisti. Però quello è il nodo, secondo me, nella testa dei giocatori, no? Cioè, quello è l'elemento come ha detto domenica sera, che ascoltavo le parole di Leonardo, noi giocatori siamo particolari. E quando non c'è la certezza di avere lo stesso allenatore, non abbiamo lo stesso atteggiamento. Sì, un'ultima cosa, ha ragione Sarri nel dire che, per così come stanno le cose, è impossibile fare più di quello che sta facendo, o ha ragione De Laurentiis che chiede lo scudetto? Ma la storia dice che a volte le squadre meno forti riescono a vincere ugualmente. Io non sono d'accordo. Cioè, ho anche l'esperienza mia, con lo scudetto, con una squadra che con gli stessi giocatori è arrivato undicesima e decima. Sì, è vero. Cioè, noi ci abbiamo messo dentro Sala, Guglielmo Pietro, Elbeck, Piroff, insomma, non ci abbiamo messo Cristiano Ronaldo o Messi. Poi grazie anche alla poca pressione, no? Come dicevo prima, che ha favorito anche Montella quest'anno, siamo riusciti a, in un campionato dove c'erano 7 squadre fortemente competitive. La differenza, Zac, era che quell'anno lì la principale avversaria, che era la Lazio, non aveva ancora forse la forza mentale e l'abitudine, no? Sono d'accordo. E poi d'accordo. C'erano 7 squadre, ma non c'era, diciamo, non c'era Merckx, non c'era il Cannibale, che è la Juventus di questi anni. Ecco, questo, io penso che Roma e Napoli abbiano un po' di frustrazione che gli deriva dal fatto di aver corso tutti questi anni, non dico vuoto, perché poi se arrivi secondo o terzo non è mai vuoto nel calcio moderno, significa Champions, significa soldi, per carità, però insomma, però alla fine vincere è il motivo per il quale poi i giocatori scendono in campo, cioè la variabile umana è quella, no? Ma è la frustrazione di sapere che gli altri sono troppo forti. Bravo, esatto. Perché mostrano sempre, è vero che solitamente chi si rinforza, chi investe e chi è arrivato secondo e terzo, in Italia la squadra che investe maggiormente è sempre quella che vince, bravo, cioè la Juve, no? Esatto. Però una forza così, una squadra che ha mostrato tale forza con continuità, io francamente prima di questa Juve non me la ricordo. Grazie mister, grazie davvero. Ciao, grazie a voi. Alberto Zaccheroni. Ciao a tutti. Piacere nostro. Giacomo, provincia di Bergamo, andiamo un po' di corsa con gli ascoltatori adesso. Giacomo. Sì, buona giornata, vi saluto. Finalmente Dica. Ho l'opportunità di parlare con voi. Prego. E lasciamo perdere i convenevoli, comunque una cosa a Pardo vorrei dirla, sicuramente è una persona con cui condivido due passioni, quella dello sport e quella del cibo, quindi mi fa piacere ascoltarlo. Ottimo, ottimo. Ne ha delle altre, Essendo due molto magri, perché sia io che l'autoconto. Anch'io faccio fatica a tenermi a regime, però purtroppo le passioni sono passioni. Sì. E poi a te Carlo volevo dire un'altra cosa, se mi permetti prima di passare alla domanda. Sicuramente tu nella tua trasmissione hai delle spalle inarrivabili, una è Pardo, te l'ho già detto. Pardo non è una spalla. La spalla è un coprotagonista, sicuramente. Leo Turrini. Anche Leo Turrini non è da meno, perché infatti lo sentivo stanotte in replica. Sì, è rimasto dallo psichiatra perché Hamilton non è ancora uscito. Oppure, come dice un mio amico, Hamilton è talmente privo di cervello da non subire pressioni. Ma questa è un'altra storia. Venga la domanda, Giacomo. Sì, allora, quello che volevo dirti, intanto fammi completare, volevo dirti che sicuramente un piccolo appunto te lo vorrei fare. Prego. Quando ci sono alcuni ospiti o anche i tuoi colleghi con cui conducete la trasmissione che vogliono parlare, secondo me tu hai un piccolo difetto di tagliare, molte volte non vedi l'ora di liquidarli, lasciali parlare. No, sì, però questo è vero, però bisogna tener conto di una cosa tecnica, che sono i tempi radiofonici, quindi sa, se uno parla molto molto a lungo poi si rischia di perdere l'attenzione, il filo di quello che dice, è meglio parlare due volte o tre volte piuttosto che parlare una per tre minuti. È una sciocchezza tecnica, una cosa tecnica che insomma mi preme sottolineare. Mentre Federico da Taranto, abbiamo ancora un minuto o meno. Salve, buonasera a tutti. Io sono un tifoso interista, da premettere. Ho avuto la sfortuna domenica di andare per la prima volta nella mia vita a vedere la mia squadra, l'Inter, a San Siro, con un risultato disastroso. E curiosamente mi sono tornate in mente le parole di Marcello Lippi subito dopo la partita con la regina persa. Sì, che abbiamo fatto sentire settimana scorsa. Che andiate in onda, perché sono le esatte parole che mi sono venute in mente. Già fatto settimana scorsa di rimandare in onda quelle parole d'archivio che tutti conoscono, non è il caso di ripetere. O licenzia l'allenatore, o prendi tutti a calci nel culo, licenzia l'allenatore, il giorno dopo era Massimo Moratti. Pierluigi, in bocca al lupo per Ma sì, io vi ringrazio perché ricevo una marea di in bocca al lupo, ma non è che devo ballare, qui ci voglio dire. Ah, non balli? Non ci può mai dire, però insomma. Ah, ecco. Voglio dire, sì. Comunque, grazie di in bocca al lupo, ci divertiremo. Il 19 vi aspetto, Italia 1, se volete. Così tutti quelli che dicono, ma l'ho fatto troppo tardi, pardon, l'ho fatto troppo tardi. Alle 19. Adesso troppo presto. Quell'ora c'ho da mangiare, o da fare l'aperitivo. Ciao, Pierluigi, sentiamo domani. Subito dopo GR, Marino Bartoletti, torno al professore, parleremo anche di basket. Bene, allora siamo tutti convocati. Ma proprio tutti. Tutti convocati. Il segnale orario vi è offerto da Pantera di Infracom, è il miglior ERP italiano? Mettici alla prova, pantera.it, col TH. Te vuoi stare seduto in panchina a guardare? O vuoi entrare in campo? Ricominciamo tutti ai nostri posti! E andiamo! Tutti convocati. Oggi sempre in diretta video anche, vi saluto con la manina, ciao ciao, potete vederci sul sito di Radio 24 oppure su Facebook, quindi sentire e vedere. Io non posso vedere voi, mi dispiace molto, così come mi dispiace immensamente di vedere così poco il mio maestro Marino Bartoletti, che però ho il piacere di sentire. Ciao Marino. Ciao Carlo, una gioia assolutamente reciproca. Scusami se non frequento lo streaming, però so che sei bello a prescindere. Questa è grossa, l'hai detta grossa. Bene, va bene, ti sei salvato in calcio d'angolo, Taylor scivolato alla Bartoletti. Allora, prima ti faccio sentire qualcosa di francese. On me dit que nos vies ne valent pas grand chose, elles passent en un instant comme frânent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos chagrins il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? Come sai, l'ex premier Obama era proprio necessario. E guarda, l'altra che mi era venuta in mente era peggio, posso dirti. No, tu che hai una memoria storica, suona la chitarra anche esattamente come me, e giuro che la suono male. No, perché l'alternativa era una hit della principessa di Monaco che degli anni '80. Ti dico solo questo. Non va so bene, se vabbè. Che cosa una ci può rapida sul hai già capito di cosa si tratta, no? Come un uragan che passe sur moi. Passerà come un uragano la Juventus sul Principato. Per favore, perdonami. No, vabbè, dai, cominciamo col dire che fa molto chic giocare una semifinale a Monte Carlo, Ma no, ma come dicevo prima, a Roma, che abita ancora lì, no? come ben sai, sono i 30 chilometri di paradiso, non solo fiscale, non solo climatico e paesaggistico della Francia, anche calcistico, sto puntando proprio tutto. Guarda, la prima volta che andai a Monte Carlo per la Formula 1, non ti dico in che anno era, ero con Pino Allievi e dovemmo giocare a blackjack per pagarci l'albergo, perché altrimenti avremmo dovuto, non ci credo, pulire i piatti per due. Sì, ci andò bene per fortuna, perché altrimenti ci avrebbero trattenuto altri tempi, come dire. Però insomma è una semifinale, come ripeto, piuttosto chic, anche piuttosto intrigante, tutt'altro che scontata. Però insomma, difficile aggiungere qualcosa a quello che già avete detto. Se la Juventus giustamente deve essere con la guardia alta ed essere concentrata, ma quando la Juventus chiama ad essere concentrati in genere non fallisce, beh, insomma, anche il Monaco qualche preoccupazione se l'avrà ad affrontare la Juventus. Cosa dici tu? È quello che penso anch'io, soprattutto se guardo le spalle del Monaco più che la testa, che è un attacco molto forte. Ma tu preferisci Zizou o preferisci le lacrime e sangue di Simeone per un'eventuale finale? Ma come gusto personale, chi vorresti vedere là a Cardiff? Quale dei due bambini della prima pagina di Marca? Guarda, lasciamo stare i gusti. Io appartengo a una generazione che ha amato e odiato il Real Madrid, perché se ci siamo appassionati in qualche modo, parlo dei ragazzi nati nella prima metà del secolo scorso come me. Lo dobbiamo a quel Real Madrid che inventò di fatto la Coppa dei Campioni, vincendo le 5 consecutive e facendoci vedere cose inimmaginabili, ma suscitando anche parecchie antipatie. Resta il fascino di quella squadra che fa sempre chic, uso ancora la stessa espressione, vedere in semifinale o addirittura in finale. Sai, il ruolo dell'allenatore del Real Madrid, ho sentito che ne parlavate prima, un ruolo molto delicato, è più simile a quello di un commissario tecnico che a un allenatore. Ti dà un grande merito, che quando parla a qualcuno negli spogliatoi, beh, quantomeno gli altri giocatori, se solo hanno studiato minimamente la storia del calcio, hanno il dovere di ascoltare. Poi è chiaro che non è tenuto a dire a Ronaldo quello che deve fare, e forse neanche a Casemiro, però comunque c'è un ascendente che evidentemente funziona. Potrei dire più crudelmente che hanno messo lì uno che non faceva danni, però insomma non li ha fatti in maniera molto elegante, sinceramente, perché ha raggiunto risultati sinceramente non immaginabili quando il povero Benitez è stato cacciato via. Quindi hai una predilezione per Zinedine in questo confronto? No. Il contrario a tutto quello che ho detto, se avessi una squadra da fare allenare ci metterei Simeone, naturalmente. Anche a Milano, sai. A Milano poi c'è un'ampia scelta, mi sembra, in questo momento di squadre che potrebbero aver bisogno di rimedi. Zidane è l'allenatore ideale per Real Madrid. Ecco, diciamo che al Chievo farebbe un po' di fatica. Senti, un'altra track da farti ascoltare, anzi quasi due, perché noi avevamo scelto questa. Che simboleggia la fottuta paura di attanaglia Lewis Hamilton in questi giorni, da profondo rosso di Dario Argento. Ma tu, da maestro, suggerisci qualcos'altro? Io non so se si chiama paura, comincia per pa e finisce per onza, secondo me, però per pa e finisce per onza. Però prego. Affacciata a finestra sta ross, o balcone rimbetta sto russ. Essa more passione bis, essa è pazza d'amore bis. Se fanno una guardata, poi se ne fanno nata, senza tenere coraggio se parla. O russa quando vede a rossa la vena addosso. A rossa quando vedo russa la vena mossa. Ma che meraviglia, il maestro Carosone, eh? Beh, fra le due io vorrei fare un exit poll per sapere cosa preferiscono i nostri ascoltatori. Mi rendo conto del fascino della prima, però o russo quando vede a rossa si innamora russo, da rossa. Beh, l'ha scritto 60 anni fa il vecchio Carosone. Senti, non c'era dubbio che vincesse un finlandese, mi dice mio amico Leo Turrini, nel paese della vodka e dello zar Putin. Conosco anche le sue teorie, però dai. Come dire, come si dice, scherzi a parte, al di là della rossa che ha affascinato la Russia, e abbiamo visto un russo premiare comunque la rossa, perché la rossa è certo in testa al campionato piloti, è in testa al campionato costruttori, e insomma devo dire che il rosso funziona quest'anno. Sì, cioè, sfido chiunque un mese e mezzo fa a dire che la signora Rossa, anzi la signora Gina, il signor Rossi sarebbero stati in testa ai rispettivi campionati. Marino, è la con più grande speranza. È una delle più grandi notizie dell'anno sportivo, è questa, perché Zaccheroni non si aspettava Simone Inzaghi come allenatore di calcio, ci ha detto prima. Io non mi aspettavo che di avere in regalo un mondiale. Inzaghi era quello che faceva il cucchiaio dicendo lo faccio io, poi lo tiravi in bocca al portiere. È vero, diciamo che l'allenatore, il grande allenatore Inzaghi è leggermente diverso da... A parte che questo è l'anno degli Inzaghi, e ieri hanno premiato per la promozione in Serie B suo fratellino, e lui sta facendo cose meravigliose, tanto di cappello. Secondo me è pure più bravo di quello che in campo invece era meglio. Pensa che è diventato allenatore della Lazio a sua insaputa, oltretutto. Non tutto il rosso funziona, perché stiamo tirando le pagliuzze venerdì per chiedere a Domenicali, gran capo della rossa su due ruote che nel cuore ti sta, se a fine stagione licenzia Lorenzo. È una domanda, un'affermazione, un'insinuazione? No, se vuoi partecipare anche tu e fargli tu la domanda, No, io sinceramente non credo che questo accada. Non credo, perché comunque... Perché non tutto funziona in rosso in Romagna, È in Emilia, Sì, in Emilia. Perdonami l'errore geografico. No, io ho fiducia in questa Ducati. Ho fiducia soprattutto nella struttura societaria, guarda, lo dico come se parlassimo di una squadra di calcio. Perché comunque c'è una solidità che va oltre le piccole defaianze, i piccoli capricci, chiamiamoli così, dei piloti. Io credo che quello di Lorenzo sia un investimento che vada valutato non a lungo termine, perché poi la pazienza è un limite, ma a medio termine sicuro. Non mi stupirei e mi dispiacerebbe se almeno un Gran Premio non lo vincesse quest'anno. Sì. Ultima track, poi ti faccio una domanda. Bicycle, I want to ride my bicycle. Say white, say bar, I say bite, say shark, I say him and Jaws was never my scene, and I don't like Star Wars. Say Rose, I say Royce, say God, give me a choice. Say Lord, I say Christ, I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman. Inutile domandarti se ti ricordi in quale occasione il grande Freddie Mercury scrisse Bicycle. Qui stai vedendo passare il Tour de France, eri in vacanza sulla Costa Azzurra. Strano ma vero, Sa anche questa. Un giorno sì, ti beccherò che non sai una cosa. È che pensano che le prepariamo queste cose. No, giuro. Giro d'Italia numero 100, guardate in anteprima. Sai, quando possiamo riusciamo a scherzare, caro Carlo, qui è un po' più difficile. Tra l'altro aggiungere malinconia alla malinconia, ieri sono andato a fare anche un salto a Imola perché devo salutare un amico che... il cui cuore ha smesso di battere lì 23 anni fa, forse l'anno prima di passare alla Ferrari. Pensa come sarebbe stato bello vedere Senna in Ferrari, e ci sarebbe arrivato, e forse avrebbe vinto prima ancora che cominciasse l'era Schumacher. Apro una parentesi non elegante: ieri ho sentito un giornale radio di un emittente di Stato di cui non faccio il nome, che ha detto che ieri tanti sportivi hanno portato dei fiori a Monza dove è morto Senna. A Monza. Studiate ragazzi, studiate. Torniamo al ciclismo, e certo non aggiungiamo allegria. Diciamo che tu sai perché non ho partecipato al nostro appuntamento. Sì, lo so, di martedì. Lo so e mi scuso della richiesta che ti ho fatto per venire inopportunamente via SMS. Ma guarda, se avessi potuto l'avrei fatto tranquillamente, perché dovevo andare a portare anche a nome tuo una carezza a un amico. Doveva essere un giro di festa, forse lo sarà, perché il giro comunque ha degli anticorpi straordinari e la gente gli vuole tanto bene che saprà essergli vicino come lo è stato in altri momenti terribili. La prima riflessione che ho fatto è stato che quando 3 settimane fa è successo ad Aru quell'inconveniente che l'ha dolorosamente tolto dal Giro d'Italia, che praticamente era stato costruito almeno all'inizio per lui, perché fosse una celebrazione, abbiamo usato espressioni che nel nostro mestiere ogni tanto dovremmo ridimensionare: il dramma di Aru, la tragedia, la disperazione. Beh, insomma, poi avremo scoperto cos'erano i drammi, la tragedia e la disperazione. Ci sarà un numero vuoto, che sarà il numero 21, quello del Giro d'Italia di quest'anno. Penso che sarà sempre molto, molto, molto, molto presente. Il Giro ha un obbligo, i suoi corridori hanno un obbligo, e noi che lo raccontiamo abbiamo un obbligo di ricordarci in ogni momento del sorriso che ci avrebbe ispirato Michele Scarponi. Ecco, quello è l'unico obbligo e l'unico dovere che abbiamo nei suoi confronti. Dopodiché non chiedermi di favoriti, no, questo, o meglio, per quello abbiamo tempo. Posso farmi una domanda e darti una risposta? Io spero in Nibali perché sarebbe ovviamente per noi italiani, che per una volta ci permettiamo di fare i tifosi, anche se dobbiamo fare i giornalisti sotto varie vesti, sarebbe la maniera più bella per onorare. Bravo Marino. Guarda, io se potessi, che ci ha fatto quel brutto scherzo, io se potessi chiedere un favore sportivo a Vincenzo Nibali, sarebbe quello di quest'anno di maglia gialla un'altra volta. Portaci la maglia rosa, portaci in regalo a tutti noi, porti in regalo a tutti noi la maglia rosa. Poi sa dove portarla, devo dire. Quindi guarda, il Giro di Croazia l'ha vinto, ti ricordi, l'altra settimana, sì, non vincendo alla Nibali, ma facendo una cosa assolutamente inusitata per quelle che sono le sue abitudini, quindi con una grinta, una cattiveria, una determinazione, un'ispirazione assolutamente originale. Io spero che le ritrovi in questo Giro, perché farebbe un piacere a tutti, proprio a tutti. Bravissimo, grazie Marino, un abbraccio, alla prossima. Ciao Marino Bartoletti. Io torno agli ascoltatori con Antonello. Buongiorno a voi. Dica. Allora, volevo rifarmi un attimo al... è ancora presente il mister Zaccheroni? No, mister Zaccheroni no, era presente prima. Sa com'è la radio. No, vabbè, mi dispiace, no, perché volevo io, da buon... gli ospiti vanno e vengono. Da buon interista volevo ricordargli che quando ha vinto lo Scudetto col Milan c'è stato un fattore C non indifferente, e quindi io mi ricordo un bel gol di Nati che di Ganso, e quindi a volte l'imponderabile va oltre gli schemi. Senza quel fattore lì raramente si vince qualcosa di importante, Antonello. No, poi ho sentito che avete cambiato argomento, io volevo rifarmi, purtroppo da interista storico dovrò ammettere che la Juve quest'anno farà il triplete, non potrò più fottere gli juventini neanche per questa cosa qua, con tutto rispetto per il Monaco, una difesa che prende 0 gol in 2 partite dal Barcellona, penso che non debba preoccuparsi di niente, adesso al di là delle scaramanzie, io vi dicendo. Quindi comunque, da italiano, da interista anomalo, faccio veramente di cuore gli auguri alla Juve, perché ne va del prestigio del tutto il calcio italiano. E mi auguro che la Juve possa vincere la finale di Coppa Campione. E così, ecco. Zac, una bella gufata a tutto tondo. Ma chi vuole fregare, Antonello? Ma chi vuole fregare? No, do una notizia invece importantissima. Abbiamo parlato ora con Marino Bartoletti. La salita del Mortirolo sarà intitolata a Scarponi, a Michele Scarponi. Qui fu la sua ultima vittoria nella Corsa Rosa. Questo è notizia dell'ultima ora ed è bellissima. Marco da Roma, buongiorno. Marco? Sì, buongiorno. Cos'è che è blu? No, è nulla, è il mare di Anzio, di Roma. Ah, beato lei. Qui invece è tutto verde, anzi blu, è blu anche qui, lo studio è blu, come potete vedere su Facebook. Dica. Io volevo mettere l'accento un po' sulla qualità limitate del mister Spalletti. Sono un tifoso romanista, amo il calcio. Limitate perché non ha saputo fare bene neppure come fanno gli orientali, cioè copiare, o gli asiatici, no? Ha dimostrato di essere stato surclassato da un allenatore da capacità umane e tecniche di gran lunga superiori nonostante il budget, ovvero Inzaghi. Ha sbagliato formazione a più riprese, proprio nella stracittadina, poi anche in altre occasioni, ma nella stracittadina ha sbagliato formazione. È vero, noi siamo tifosi, poi ci piace essere allenatori, ma i Totti, benché tu gli faccia fare 10 o 40 minuti, lo metti dall'inizio insieme a Perotti. Marco, Totti dall'inizio quest'anno non l'abbiamo visto mai. Io tante volte ho criticato il modo in cui veniva svillaneggiato Totti, inserendo la partita ampiamente chiuse come passarella inutile per un giocatore come lui. Poi non so se abbia sbagliato formazione, probabilmente sì, di sicuro ha sbagliato approccio e atteggiamento, e di sicuro vale quanto detto prima, e cioè che quelle parole, se non vinco me ne vado, forse avrebbe dovuto aspettare a pronunciarle. Luca Chiabotti, mio grande amico, nonché una delle penne più illustri del basket ogni epoca. Buongiorno a lei. Allora, io so che ci sono molti che adesso le registrano e poi se le guardano. Beh, io devo dire, siamo in diretta, facciamo cronaca. Questa notte, playoff NBA, i San Antonio Spurs hanno preso una spazzolata terrificante in casa dagli Houston Rockets, 126-99, con rissa nel quarto periodo. Questo vuol dire che è finito qualcosa dalle parti di San Antonio? Perché quella è un'epopea di cui... quasi non ricordiamo l'inizio, di cui non vedevamo la fine. Ma io credo che prima di tutto Houston, come sosteneva anche Ettore Messina prima dei playoff, è una squadra che loro soffrono moltissimo. La cosa che la cosa che è strana è che San Antonio, sapendo di avere dei brutti accoppiamenti con loro e di temere il loro tipo di gioco basato sul tiro da tre punti, che gli abbia fatti fare 50 subendone 22 venendo spazzolati via. Questo sicuramente è il dato più strano, perché di solito San Antonio è bravissima a fare questo tipo di contromosse. Se sia finita non lo so. Di certo una cosa che mi è sembrata strana è che nelle ultime partite, soprattutto si è visto con Memphis, San Antonio ha giocato un gioco in isolamento, avendo una stella ormai come Kawhi Leonard, ha giocato un gioco in isolamento per lui. E francamente, se diventa una squadra come le altre, San Bravissimo. Antonio, che gioca così, allora ci sono altre che sono più forti. La loro caratteristica, secondo me, sarà tentare di ritornare a essere San Antonio, cioè la squadra con la qualità di basket superiore, perché se si mette a fare uno contro uno col barba di Houston con Harden rischia di finire veramente male. E questo può essere uno dei segnali che ci porterebbero a capire che un'epoca potrebbe essere vicino alla conclusione. Cleveland spazza via Toronto, ma qui i dubbi ce n'erano pochi. Boston rimonta da meno 16 fino a vincere con Washington, e stiamo parlando sempre di gare 1. Piuttosto in Italia ai playoff chi va? Perché c'è una un gruppo di molto nutrito di squadre tra 28 e 26 punti: Pistoia, Brindisi, Capodorlando, Varese e Brescia. Tutto per due posti. Tutto per due posti. Diciamo che se Pistoia non fa fesserie in casa contro Brescia, entra da settima e se lo merita, e quindi direi che questo potrebbe essere un primo dato, anche perché perdendo rischierebbe di star fuori, perché andrebbe 0-2 con Brescia e si complicherebbe la vita in modo enorme. Per il resto direi che la squadra più in questo momento più stimolante anche come talento è Brindisi, ma si è sparata nei piedi in due partite recentemente, e quindi è davanti a un'impresa molto molto difficile, che probabilmente favorirà Capodorlando, che però entra a 6 sconfitte consecutive alle spalle, quindi entrerebbe nei playoff forse proprio per tagliare il traguardo, sì, a motore spento. A motore spento, e quindi tutto sommato, fatta salda la grande stagione che ha fatto con tutti i problemi che ha avuto Capodorlando, se sarebbe ci fosse un una numero 8 un po' più viva, sarebbe un po' più divertente. In questo caso, più divertenti il primo. Esatto, Brindisi sarebbe sarebbe ideale, qualcosa di diverso. Tutto Milano. Esatto. Grazie Luca, ci sentiamo strada facendo lungo i playoff italiani e americani. Grazie Luca Chiabotti per il momento. A tutti. Io ringrazio Giorgio De Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia, Edoardo Lavezzana in redazione, e tutti i convocati. Torna domani alle 2. Abbiamo visto abbastanza. Ciao a tutti.